E ci avviciniamo a Città del Messico. Ogni volta faccio in Io modo di credo arrivarci. Che la cosa più importante nel viaggio sia proprio dimagrire. Ah, le donne turche sono assolutamente mitiche. Un altro rumore caratteristico è la macchina del ghiaccio che c'è dappertutto perché gli americani hanno bisogno di ghiaccio. C'è sempre un'India dietro un'India, dietro un'altra India, dietro un'altra India. Fatti accompagnare dalle emozioni degli scrittori in un viaggio intorno al mondo. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. Ogni sabato alle 12 e in replica la domenica alle 22 su Radio 24.